trasformatore di tensione non funzionava a 220, poi c'era il problema sulla 12 volt, insomma, per metterlo in linea come Marco, perché più opinione di me lo voleva, ha preso altri 50 euro. E quindi è costato 200 euro quella radio, non nocciolina, a me mi è costato, c'è ancora ricevuta 198 euro. Ho ritirato a 198 euro, è arrivato a casa così, 198 euro tra radio e spedizione, tutto, capito? Poi in più io avevo l'MB più 5 e quindi gli ho messo anche l'MB più 5 e gli ho fatto così, capito? Quindi... Ma fai l'affare, prendi Mario. Gaffa. Luca, ti sei contento a cosa? Robert, io non sono carrozziere, però ti potrei dire, che poi magari tu lo sai, ti ricordi nel 1962 che si dava come fondo nella macchina? Io pure sai, quello lì lo faceva la guardia tipo buccia d'arancio, e poi lo verdeggiavi sopra, adesso io è il comandante. La ma esiste direttamente un prodotto di ingrinato che si usa per riprodurre la grigliatura dei paraurti. Lui se lo fa direttamente, noi lo usiamo quando ci sono qualche paraurti da riprendere con i neri per recuperarli. Gaffa. C'è tutta un'altra musica, Mario, questo apparato, si sente già a orecchio. Questo. Perfetta, limpida la radio, perfettamente eccellente. Che cosa prima delle 7:30? Non ho capito. Cioè delle... Cos'è questo, Robert? Non ti ho capito. No, questo apparato che sta utilizzando Mario. No, la radio è perfetta. Abbiamo fatto la regolazione, va benissimo, perfetta, la grande, segnale forte, basta che non gridi, tranquillo, lui esce benissimo. Questo era quello di Pomponio, così è? Di Pomponio, non era, bisogna, è di Antonello, lo sto usando Mario perché Antonello non vuole sentire come esce, basta, siamo per gente, dice le cose, non tu, ma gli è successo l'altro giorno, mi è arrivata una telefonata, dice ci ha preso quella, non ci ha preso proprio niente, lo sta provando e boh, è come io, devo andare via a te, è così a provare perché la voglio sentire, dice ah ci ha preso quella, no, la radio la sta provando lui ma è la mia. No, come non lo so, pensavo la dovessi acquistare Mario, comprare lui questo. E Mario ne deve acquistare una. Che sia quella o un'altra non cambia niente, però più o meno c'è una radio così, capito? Allora Luna, ce l'accordo se trovassimo un bel base completo di tutto. Lo uso che ascolta qua, però a venderlo non lo vende, noi lo amassi ma non lo vende. Io lo so così, gli ho fatto mille volte la proposta, cioè me lo ritornava, era meno accurato. E poi questo è un 140, Claudio? No, è un 180. E se tu non hai quel 440 che c'è il tuo o è un'altra musica? No, è completamente diverso, è simile, è gemello nel 140, solo che c'è una banda in più. Ma che tira fuori 50? Non male, è regolabile, da 0 a 100. Gaffa, una bomba allora. Sono radio molto belle. Radio belle, affidabili. Ah, Lu, non mi ha risposto. Non va bene se trovassimo una cosa del genere. Cosa, caro? Stai cercando dei capi in corda per attaccare due spini al recattore. Non ho capito, mi sono spostato, cosa hai detto? Sto vendendo quello là, non sarebbe ideale se trovassimo una stazione base bella a 220 volt con le bande laterali, orologio, orometro, wattometro, tutto incorporato, chi non ha bisogno di nulla. Guarda, io sono innamorato del 4005, del Tornado, tu mi dirai una mondezza, a me mi piace. Perché uno simile, mettono uno simile, non c'è problema, no, tanto più o meno le caratteristiche sono uguali. Vabbè, ma se trovassimo, non so, un base, ma bello, tipo quello che c'ha Roberto, tipo Rossi, tipo, insomma, basi così che io conosco molto bene e che funzionano bene con il microfono a tavolo, che c'hai tre strumenti nella radio, quindi c'hai il modulatore, c'hai il rosmetro, il vattometro, c'hai tutto quello che serve, insomma, senza nessun strumento, lo metti lì, attacchi la presa, a 220 sarebbe ideale. Quello già è vero, però non ho ragione con te malattino. Vediamo, dai, vediamo. Comunque uno là, se non lo prende, già lo c'era un Zendi, buono. Se no, si bene. Quello lì lo prendo con occhi chiusi, perché come hai detto tu è un buon malattino, perciò. Vediamo, dai, vediamo sempre se riusciamo a prendere questo, se no non si fa niente, per il momento non si fa niente, perché se riesco a prendermelo uno là, non vendendo il mobicom non lo tengo, non lo vendo più, Ma no, infatti, te l'ho detto, per il mobicom ci vogliono soldi, se te lo prendono come hai detto, bello tranquillamente, troviamo e prendiamo quello che hai detto, altrimenti ciccia, capito, altrimenti 0 sotto 0. Paga, passami questo sul 5 ratino, faccio un altro appello, vediamo un po' se qualcuno interessa. Ma io non attaccalo, però fallo sentire. Regola lei come fa per farla andare, come quando stiamo durando qua. Claudio, c'è qualcuno che ti chiama? Thank you. pazienza perché stavo mangiando e non potevo guardare. 1, 2, 3, 30, 40, 50, Roberto Quadrato da Sassari. Gaffa, gaffa. 9,20. Quindi da 9,5 a 9,20 basta con questa antenna e con questo apparato. Gaffa. E la radio com'è? E la radio è una bomba. Perfetta, pulita, chiara, senza nessun fruscio, senza niente. Gaffa, gaffa, meglio così, dai. Oh, yeah. stanno ascoltando. Ciao a tutti. Ciao Pallappa, buon lavoro Roberto. Tutte le frutte da là. Ok, a stasera. Ciao Pallappa, vai Luca. Ciao Roberto, ciao, buon lavoro con tutto e tutto. Ciao. A me no, non so se è Roberto l'ha ascoltato, ma sta salutando. Non è sul cane, sta cacciando il Michelino, già Roberto. Luca. Cosa? Hai sceso dal cane, stai cacciando il vitellino. Il vitellino? Il vitellino sta cacciando. Ah, qua. Non ho sentito, no? Questo qui è la barra di Lello. È K di Roger Romario, in questo momento sono di positivo. E allora la fortuna dell'ottima precisa. Gabba, lei la fortuna della precisa. Gabba, gabba. Andando bene, zucche zucche, è andando. Gabba Mario, dai, io sto un saluto Mario, faccio una buona serata, buon trabacco per tutta la serata. E ci siete più tardi sicuramente Mario. Dai gabba gabba, d'accordo, tutto ricambiato al centro, dai. Ce la riascoltiamo più tardi, ciao. Ciao, ciao, ciao, sì.